In ogni caso, come diceva Miglio, se dovesse fallire la Lega, la situazione è arrivata ad un punto tale di non ritorno che qualcun altro ne deve prendere l'eredità e riprendere questi temi che sono al momento un po' sospesi per aria per ragioni contingenti che evidentemente non consentono all'attuale dirigenza leghista di lanciarsi in queste cose. Hanno altri problemi, però i problemi ci sono, come si vede dal fatto che sono nell'agenda dell'attualità di alcuni giornali stranieri, no? Che sono quelli che hai citato tu, poi c'è anche l'Economist che ha fatto qualcosa del genere tempo fa. Questa cosa si ripete, insomma, all'estero la cosa è più evidente e visibile che non da noi, evidentemente certi problemi si vedono più da lontano che non da vicino, ecco, essendoci in mezzo forse siamo distratti da mille altre marginalità.